c'è che mi manca di te. Cosa c'è che mi manca di te? Mi manca il respiro la notte, mi manca il sapore di un bacio, mi mancano le tue carezze spontanee di quando passavi per caso, mi mancano i vuoti che tu mi colmavi sapendo anche dove eravamo, mi mancano gli occhi di te che guardandomi su c'era scritto ti amo. Cosa c'è che mi manca di te? Cosa c'è che mi manca di te? Mi manca guardarti mentre dormi, mentre balli, mentre sogni e ti nascondi in debolezze che non hai. Mi manca svegliarmi al mattino vedendoti in giro e sapendo che da me verrai. Mi manca mancarti sapendo che in fondo un po' mi mancherai. Chissà se ti mancherò, perché mancarsi è universale. Chissà se ti rivedrò, perché mancarsi fa più male di non averti più, di non amarti più. Cosa c'è che mi manca di te? Cosa c'è che mi manca di te? Mi manca guardarti mentre dormi, mentre balli, mentre sogni e ti nascondi in debolezze che non hai. Mi manca svegliarmi al mattino vedendoti in giro e sapendo che da me verrai. Mi manca mancarti sapendo che in fondo un po' mi mancherai. C'è che sto bene con te e che mi manchi anche quando ci sei. So che stai bene con me e se ti manco qualcosa c'è. Mi manca guardarti mentre dormi, mentre balli, mentre sogni e ti nascondi in debolezze che non hai. Mi manca svegliarmi al mattino vedendoti in giro sapendo che da me verrai. Mi manca mancarti sapendo che in fondo un po' mi mancherai. Cosa c'è che mi manca di te? Cosa c'è che mi manca di me?